ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24 e ben ritrovati Ivana Di Martino. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, eccoci, nuova stagione di Personal Best, ripartiamo oggi per raccontare insomma il mondo del running, dell'atletica, del triathlon, anche attraverso le interviste dei protagonisti e i consigli degli esperti, come faremo appunto oggi. Ma partiamo da te, Ivana, come stai innanzitutto? Molto bene, molto bene. Hai corso quest'estate, poi finalmente ci incontriamo a distanza, ma ci incontriamo. A distanza, ancora a distanza, purtroppo. Sì, ho corso tanto, è stata un'estate molto ricca di allenamenti di tutti i generi, ma sono contenta, molto, molto, molto bene. E so che stai preparando una piccola sfida, ma non diciamo nulla, no, per ora? No, dai, ancora un segreto, per pochi giorni ancora. Okay. Allora, nell'attesa, iniziamo la nuova stagione di Personal Best con vecchi compagni di viaggio, infatti oggi sono con noi il coach Fabio Vedana, bentornato. Ciao a tutti! Com'è andata l'estate? Alla grande, mi sono divertito e... ho fatto poche vacanze, ma mi sono divertito lo stesso perché ho fatto la cosa che mi piace di più, cioè allenare i miei atleti. Ecco, ci racconterai. Ed ecco noi anche la nutrizionista Francesca De Rio, bentornata. Ciao, buona giornata a tutti, ben trovati. Tu sei sempre in vacanza, per cui deduco che vada bene. Io vivo in vacanza. Meno male, fortunata tu. Allora, nuovamente insieme in modalità casalinga per dare qualche consiglio e scoprire qualche curiosità dal mondo del running. E coach, partiamo da te, che hai insomma passato l'estate tra training camp e allenamenti in quota. Com'è andato a Sestriere? Va bene, è stato un ottimo training camp, lungo, molto lungo, perché abbiamo fatto praticamente 29 giorni di allenamento con il mio gruppo di triatleti elite. Quest'anno abbiamo avuto un'affluenza incredibile perché oltre al gruppo storico, quello che si allena al centro sportivo di DS, che è la sede del nostro gruppo di allenamento, abbiamo avuto anche parecchi ospiti che si sono aggregati per quel periodo, anche un po' di discipline diverse. Abbiamo fatto quindi una bella contaminazione di ambienti, che è sempre un po' una cifra che dà valore all'esperienza di tutti. E poi, dal punto di vista dell'allenamento, abbiamo veramente dato tantissimo accento ai lavori estensivi, quindi ai lavori lunghi. Abbiamo fatto dei percorsi podistici incredibili. Sestriere si è rivelata veramente una scoperta per quanto riguarda i percorsi da poter fare di corsa, con degli sterrati magnifici a differenti altezze. Quindi all'inizio correvamo a 1600, poi siamo saliti a 1800, abbiamo fatto 2000, 2002, siamo arrivati anche a correre una corsa estensiva a 2400 metri sulla strada che va verso la Sietta. È veramente magnifico. A Sestriere c'è anche il percorso, il sentiero dedicato a Gerlindo Bordin, Fabio? Sì, li hanno dedicati a tutti, perché c'è un sentiero che si chiama Gerlindo Bordin, c'è un sentiero dedicato a Brugnetti, che è stato il vincitore della medaglia della marcia ad Atene, e poi c'è anche un sentiero molto carino sopra la pista d'atletica dedicato a Baldini, che sono 700 metri vallonate, veramente un bel loop. Quest'anno l'hanno rinnovato e l'hanno veramente valorizzato. L'anno scorso era stato solo abbozzato, quest'anno è veramente rinnovato e valorizzato, e quindi abbiamo veramente fatto 4 settimane intense ma piacevoli. Tu parlavi di quota prima, quali sono, andando al sodo, insomma, i benefici di allenarsi in altura? Allora, il beneficio principale è trovare un clima adeguato al periodo. Sinceramente, allenarsi a metà agosto e metà luglio a Milano, a Settimo, dove siamo noi, era praticamente impossibile, il calore era insopportabile, quindi il clima era perfetto. E poi c'è tutto il vantaggio legato al fatto che, lavorando con una pressione parziale d'ossigeno più bassa, si stimola proprio la produzione di globuli rossi da parte del nostro organismo, che ha questa fame d'aria, e quindi per rispondere a questa fame d'aria fa un'iperproduzione di globuli rossi che, quando ritorni a livello del mare, ti permettono diminuire le sensazioni di fatica, soprattutto sugli sforzi di lungo periodo. E questo è il vantaggio più grande. E quanto tempo dobbiamo passare in quota perché ci sia questo beneficio? Guarda, gli adattamenti avvengono già dopo 4-5 giorni, c'è già questo stimolo a migliorare appunto la produzione di tutta la parte corpuscolare del nostro sangue. Però per avere dei veri adattamenti stabili, la letteratura parla sempre di 14-21 giorni. Okay. Noi abbiamo allungato ulteriormente proprio perché la nostra priorità non era sicuramente anche questa dal punto di vista dell'adattamento fisiologico, ma soprattutto da trovare delle condizioni ambientali in cui ci si potesse allenare mantenendo i volumi che sono la caratteristica della strutturazione dell'allenamento di un gruppo di elite che deve allenarsi 25-30, siamo arrivati a quasi 35 ore di allenamento settimanali, quindi farle a Milano, qualcuno di voi ci è rimasto a luglio, era veramente impossibile. E non Francesca, diciamo. Impossibile. E poi il recupero è l'altro aspetto importante perché si riesce a riposare bene, cosa che non riesci a fare invece se hai un clima torrido. E quanto dura poi il beneficio però di questa cosa? Il beneficio dura tanto. Diciamo che ci sono varie curve e vari modelli di discesa dalla quota. Solitamente appena scendi hai un beneficio immediato, poi hai un periodo si chiama un po' un periodo nero in cui ti devi riacclimatare alla normo quota e poi i benefici cominciano a diventare importanti dal decimo giorno in poi per anche più di un mese. Ma durano anche 6 settimane. Infatti noi siamo scesi a metà agosto proprio per poter affrontare, speriamo, le gare che cominciano per noi da questo weekend, ci sono le prime gare e poi avremo delle gare internazionali, speriamo che siano confermate, perché come ben sapete avvengono annullamenti anche nell'imminenza dell'evento. E Fabio, parlavi di gare, negli anni scorsi, in questo periodo, eravamo più o meno a metà del nostro programma di allenamento per preparare una maratona, solitamente era la maratona di Venezia, che è ancora in programma l'ultima domenica di ottobre. Iniziavamo a inserire degli allenamenti un po' più lunghi in questo periodo. Solitamente questa è la fase in cui si fa proprio il consolidamento degli adattamenti di lungo periodo e quindi si fanno tutti... E si inseriscono dopo la fase prettamente agostana, dove o sei in un luogo adatto, quindi in montagna, o un luogo fresco, oppure difficilmente riesci a fare degli adattamenti, degli allenamenti che ti danno degli adattamenti positivi. Quindi il mese di settembre, visto l'incertezza in cui siamo in questo periodo, potrebbe essere sempre un momento in cui allungo un po' e quindi aumento le ore di attività fisica durante la settimana. Potrebbe anche essere il momento in cui posso variare un po' sia lo stimolo, quindi introducendo magari dei lavori con dei mezzi differenziati come la bici, come il nuoto, per esempio, che potrebbe essere mantenuto per chi l'ha iniziato d'estate per mitigare un po' la calura. E invece, per quanto riguarda la specificità della corsa e del gesto, magari introdurre dei lavori estensivissimi, ma anche qualcosa di un po' più qualitativo, proprio per dare un pochino al nostro motore aerobico un po' più di brillantezza. Brillantezza vuol dire aumentargli un po' i cavalli, quindi magari fare qualche lavoro più intenso, magari usando o degli allenamenti variati o degli allenamenti progressivi o delle vere e proprie ripetute, per chi ha già un livello un po' più alto del neofita, ecco. Le ripetute sono quindi delle ripetizioni ad intensità solitamente medio-alta o altissima, della durata da 2 a 6 minuti, che quindi ci permettono comunque di tirare un po' il motore e quindi di creare quegli adattamenti che ci permettono di migliorare la cilindrata, migliorare la brillantezza e dare un po' più di cavalli al nostro motore, che ci serviranno poi quando faremo allenamenti più lunghi e speriamo gare. Anche per uscire un po' da quello che tu definisci il monopasso dell'amatore, no? Perché sì, il monopasso, il monopasso dell'amatore è come la mononota di Elio, le storie tese, è la stessa cosa, cioè ti mantiene sempre quel passo lì. E quindi... Sì, che ha la tendenza magari di correre sempre allo stesso ritmo, magari variando solo la distanza, no? Magari appunto tu parlavi di allenamento sia ripetute che in progressione, ci potrebbero aiutare a avere risultati migliori. Sì, il bello della progressione è che io posso fare sia una progressione per quanto riguarda l'intensità e una progressione anche per quanto riguarda la cadenza, cioè il numero di passi che io riesco a svolgere in un minuto. che quindi ci permettono di evitare il monopasso. Il monopasso è quando ho la stessa cadenza, lo stesso appoggio, la stessa ampiezza, mentre facendo questi giochi, quindi giochi sia di intensità, quindi aumento la velocità oppure aumento la cadenza, mi permettono di avere nel mio patrimonio di capacità motorie un'ampiezza che sicuramente poi mi ritornerà utile quando farò dei lavori più specifici, quindi più specifici alla distanza che andrò a preparare, oppure dei lavori già in competizione, perché comunque non dimentichiamoci che la competizione è la festa di fine anno, cioè se io vado a scuola tutto l'anno e non faccio la festa di fine anno non posso andare all'anno quindi tutti noi aspettavamo la festa di fine anno. Francesca, abbiamo parlato di lunghi, no? Come ci dobbiamo comportare nel prima e nel dopo di questi allenamenti lunghi, diciamo ovviamente oltre le 2 ore? Sì, beh, sicuramente l'integrazione durante un allenamento lungo diventa fondamentale, quindi l'integrazione durante, se ne possiamo fare a meno quando facciamo diciamo un allenamento che dura 50 minuti, un'ora, non ne possiamo più fare a meno quando iniziamo a allungare i tempi. E diventa anche importante mangiare qualcosa prima, che sia ovviamente digeribile, che siano quegli zuccheri magari a rapido assorbimento che prendiamo subito prima. Io dico sempre, se vai a fare un lungo molto presto la mattina, quindi non fai in tempo a fare colazione, a digerire la colazione, perché comunque i tempi di digestione di una colazione completa sono più lunghi. Se non fai in tempo, puoi prendere comunque qualcosa di molto leggero e digeribile, come 2 fette biscottate col miele, per esempio, o direttamente iniziare ad assumere degli integratori, una barretta energetica, oppure magari un gel o un bicchiere dove abbiamo sciolto dei sali con zuccheri. E durante, diciamo che orientativamente, media, potremmo dire che dobbiamo assumere minimo quei 30 grammi di carboidrati ogni ora. E quindi quello che dobbiamo fare, l'abbiamo detto tante volte, è andare a leggere quanti carboidrati ci sono nei nostri gel, perché sostanzialmente quando corriamo utilizziamo i gel, e andare a fare un conto. Quindi se un gel in media contiene 22-25 grammi di carboidrati, quindi se contiene questa quantità può contenerne anche fino a 30 grammi, possiamo pensare di assumerne per esempio uno ogni 40 minuti. Ovviamente poi a seconda dell'allenamento che si deve fare si può pensare di assumere quel gel in momenti strategici, quindi per esempio inizia a fare magari faccio un'ora facile e poi magari inizio a fare delle ripetute, quindi degli allunghi, aumento l'intensità eccetera, quindi posso pensare di assumere quei gel magari in momenti precisi, quindi 5 minuti prima di iniziare dei lavori un po' più intensi, però mediamente l'integrazione durante non può mancare. E poi importantissimo sempre, non lo dimentichiamo mai, il recupero dopo, che significa soprattutto idratazione, proteine e zuccheri a rapido assorbimento. Quindi beviamo, reintegriamo liquidi, i sali, ovviamente lo dovremmo fare anche durante, quindi sarebbe l'ideale avere a disposizione diciamo delle stazioni dove riusciamo a prendere dei liquidi durante i nostri allenamenti lunghi. Adesso ci sono anche dei gel che sono idratati e contengono dei sali minerali, però subito dopo dobbiamo reintegrare i liquidi e dobbiamo assumere proteine di buona qualità e zuccheri a rapido assorbimento per ripristinare le riserve di glicogeno muscolare e anche per andare appunto a diciamo ristrutturare i nostri muscoli e favorire gli adattamenti all'allenamento. Il tutto, lo ricordiamo, entro quei 30 minuti dalla fine. E Fabio, un argomento di cui si parla poco quando parliamo di corsa è l'età, no? Molti runner amatoriali, infatti, possiamo dirlo, non sono più dei ragazzini, io per primo. Come dobbiamo adattare il nostro allenamento alla nostra età? Immagino che l'approccio di un trentenne rispetto a un cinquantenne debba essere diverso. Qual è la principale differenza? Sì, io direi che è importante nell'approccio, più che l'età cronologica, cioè quanti anni abbiamo scritti sulla carta d'identità, quanti anni abbiamo praticato questo sport. Quindi ci può essere il cinquantenne che è un neofita e che si deve comportare come un trentenne neofita, naturalmente adattando al fatto che ha 20 anni in più di esperienza. Però ci sono dei cinquantenni che sono 20 anni che corrono e che sicuramente hanno degli adattamenti ben più importanti e sedimentati del trentenne che inizia. e quindi vedrei più che altro gli anni di pratica. Sicuramente più iniziamo a praticare la corsa in tarda età e più dobbiamo essere molto attenti alla gradualità con la quale aumentiamo il numero di ore che facciamo di corsa a settimana, proprio perché manca quello che si chiama l'adattamento dello scheletro, dei tendini, dei legamenti, dei muscoli, che sono quelli che con l'età, se non si sono fatti, tendono a aumentare la possibilità di infortuni. E quindi, onde evitare di parto entusiasta, vado a correre, corro 4 volte tutti i giorni e poi sto fermo un anno perché devo recuperare dall'infortunio di quei 4 giorni in cui ho corso un'ora, meglio, dico sempre, quando inizio a correre, fermarmi sempre prima di quello che penso possa essere il mio livello di fatica sopportabile, sempre prima, cioè non devo mai arrivare ad esaurirmi alla prima corsa che faccio, ma neanche nel primo mese non devo mai arrivare a fare una corsa veramente al limite delle mie capacità di resistenza sia fisica che mentale, mentre se sono più giovane questa fase di adattamento è più corta perché riesco comunque a ridurla, più quindi sono in là con gli anni, più vado verso la mezza età e più devo aumentare questa fase di adattamento. Anche un'altra cosa importante è che tipo di memoria storica ho riguardo all'attività fisica, perché cambia molto se nell'età d'oro, cioè dai 15 ai 20 anni, ho fatto sport o non l'ho fatto. Io mi ritrovo spesso persone che vogliono fare un Ironman e arrivano a 40 anni da me che non hanno fatto nulla nell'età d'oro, cioè nell'età d'oro magari venivano da buone famiglie dove si diceva che se fai sport togli del tempo allo studio, parlo di 30 anni fa, non adesso, adesso già è un po' cambiata la cultura in questo, fortunatamente, questo riguardo, fortunatamente, perché bisogna conciliare sport e studio, anzi è una peculiarità che dobbiamo ricercare, e quindi si ritrovano a 40 anni a non avere, come se facciamo una metafora, è come se io mi ritrovo a 40 anni a studiare una lingua nuova ma mi ho completamente dimenticato anche la grammatica della mia lingua stessa, perché non ce l'ho e quindi non riesco neanche a capire come poter costruire una frase. La stessa cosa avviene per quanto riguarda la prestazione motoria. Allora lì, in quel caso, bisogna fare proprio una fase di alfabetizzazione motoria, che se non l'ho fatta nell'età d'oro devo farla. Ma non basta prendi le scarpe e ti metti a correre o a camminare, ma comunque fai un minimo di lavoro sulla coordinazione e sul carico, perché comunque, come ricordo sempre, quando io cammino porto il mio peso sull'arto, quando corro porto 3 volte il mio peso sull'arto, in quanto ho la fase di sospensione, no? Quindi la fase di volo. La regola che teniamo è più inizio tardi e più devo dedicarmi alla fase di adattamento. Più inizio presto e ho una memoria storica importante, più posso fare velocemente questa fase, che è fondamentale per evitare infortuni che poi minano la mia motivazione, perché se mi infortunio subito e sto fermo, faccio 5 giorni di allenamento e sto fermo un non mese, riparto più. Se va bene, capisci che la motivazione va a farsi benedire. E invece era la prima leva che ci ha fatto mettere le scarpe, la maglietta e uscire di casa per andare a correre al parco. Aggiungiamo una cosa importante, secondo me, che è il fatto che quando invecchiamo, già dopo i 30 anni, perdiamo massa muscolare, questo è fisiologico, e quindi non saremo mai uguali a come quando avevamo 20 anni, no? Quindi se non adattiamo bene la nostra alimentazione, rischiamo, allenandoci, di perdere molta più massa muscolare di quella che perdiamo, e quindi poi rischiamo di farci male, come diceva appunto Fabio. E questo vale anche per chi magari correva quando aveva 20 anni, poi ha smesso e poi ha ripreso, convinto di essere la stessa persona, invece siamo persone molto, molto diverse rispetto purtroppo a quando ne avevamo 20, e quindi ancora di più il recupero post allenamento, quindi le proteine che introduciamo e le proteine nella nostra alimentazione quotidiana diventano fondamentali. Tant'è che insomma il fabbisogno, le linee guida dicono che il fabbisogno nelle persone, diciamo, anziane aumenta rispetto a quello della popolazione generale. Ok, allora siamo in chiusura, grazie sempre per i vostri consigli, grazie Francesca. Grazie a voi, a presto. E grazie Fabio, ci vediamo presto. Grazie a voi amici, speriamo di rivederci presto al campo, così riusciamo a fare un allenamento insieme e magari riusciamo anche a coinvolgere qualche nostro radioascoltatore che magari si può aggiungere con noi, se magari è di Milano o di zone limitrofe.